La posizione, Charlie, dici la posizione dopo. Il wattmetro, così almeno misuri quant'è proprio. E almeno sai esattamente come lo devi mettere. Perché deve aumentare la radio e il segnale quando tu attacchi. Non andare in saturazione. Così è 5 watt. E vabbè, anche poco fa andava bene, c'era anche un po' di più. Devi misurare quanti watt gli puoi dare d'ingresso senza saturare la radio. Io già lo so, però non me la sento la radio come esce, quindi lo chiedo a voi per quello, per regolarlo bene. Vabbè, lo devo mettere a 10, da numero 10. Ok. E mettilo così e tu sei un signore. Vedrai in lontananza, aumenta la radio e il segnale. Ma se n'è andato l'amico Giovanni? Sì, è calata la propagazione per quello. Io non lo sento più. Credo che avesse salutato l'amico di prima, eh. A parte che adesso c'è la propagazione. Sì, ci dobbiamo salutare, posso dire che dicendo la propagazione. Cappa, Sud Italia. Che città sei? Sì, forse benissimo. Cappa, Alpio, dai, oggi c'è la Sicilia in propagazione, dai. Abbiamo sentito Enna poco fa. No, io in negativo, succede anche a noi con Cagliari, capito? Noi siamo a Sassari e Cagliari è negativo per noi. Succede, magari arrivi da un'altra parte che è molto più lontano, però non riesci a arrivare lì. Succede questo, dai, sono in compagnia di Natalino Alfa 1 e di Marco Condor. Ciao l'amico di Catania, io ti sento con un Santiago di 7 e una radio di 5. Non so come tu mi stia ascoltando, Avanti ancora a te l'amico di Catania. Natalino Alfa 1 da questa parte. L'operatore Alfio, con un segnale di 8, tra 5 per con una quarantina di io sto andando con la potenza dell'apparato, saranno una quindicina di watt e non di più, non ho niente da attaccare qua. Ok, avanti Marco Condor per l'amico Alfio, dai. Cappa, vediamo se Alfio mi copia. Lui qui arriva un Santiago di 7, però lo smitter è tarato a secco, dovrebbe essere un Santiago 8 reale. Santiago 8, una radio di 5. Vediamo Alfio se mi ha copiato. Marco da Sassari. Non si fermo, non si muove niente. Ok Alfio, grazie. Allora ho sentito un'altra chiamata per la città di Sassari, la faccio venire avanti. Premetto che ha la modulazione alquanto bassina. Avanti che chiama Sassari. Buonasera, buonasera, principe con la città di Potenza. Buonasera a tutta la Rodellina. Cappa, potenza, segnale 8, Smith a secco, quindi quasi un 9. Ti mando avanti Gianni dalla stessa città di Sassari. Vai Gianni. Buonasera amico di Potenza, è l'operatore W della città di Sassari che ti supercordializza, avanti di nuovo. Attento Potenza. Attenzione Isola Sardegna, ascolti in Capre Eco. Attenzione Costa Ionica, si ascolti il doppio rum della città di Sassari. Cappa, non ho capito come si operatore Gianni doppio rum. Vediamo un po' se la Costa Ionica riesce a copiarmi. Attenzione Costa Ionica, se copi la Sardegna, la Cuba del Mediterraneo, avanti. Non ripeto, è troppo buono. Ascolto la Sardegna, ciao Gianni, ho ascoltato anche te, buonasera. Antonio qua, stazione Mano Nera, direzione Grande Isola, qua coordinate Costa Ionica, passo. K95, segnale per te, radio 5 a bomba. Ciao Antonio, ti ascolto anche io. Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari, nord della Sardegna. Avanti Costa Ionica, 5-9 per te. KK Natalino, buonasera anche a te, sentito della primiera. Ascolto tutti, dai, ascolto tutti, perché su questo canale c'è, diciamo, un pochettino meno casino, dai. Continuate in Costa Ionica, direzione Grande Isola. Avanti Natalino, Antonio, io ti ascolto benissimo qua, è una favola, la propagazione è molto positiva nei tuoi confronti, dai. Ci sentiamo alle prossime, 73 Antonio, Natalino Alfa 1 ti saluta, avanti Marco. Sì, allora di nuovo la Costa Ionica, i saluti da Sassari, operatore Marco. Natalia, avrei voluto il 3009 sotto mano adesso, già collegato, per fare di exe, non questa scatoletta di fiammiferi, però pare che mi copino bene anche di radio, va bene, è tutto buono, tutto Roger. E io sto usando quello là, no? La T5555, ma come sto uscendo con l'eco? A proposito. Bene, bene, direi fa molto di Exer. Ci metto anche il bip. E dov'è il bip? Avanti potenza di nuovo, volevo dirti, la modulazione è alquanto bassina, è come un po' nasina, fina come modulazione, un po' bassina, puoi aumentare qualcosa interrogativo? Beh, ho messo con la... Io che devi aumentare, mi ascoltate tutte le Santiago 9. No, no, era riferito alla modulazione, la sola modulazione, un po' bassina e nasina e come fine, molto fine. Citofonica. Sì, vai tu Gianni, diglielo. Scappa, attenzione all'amico se ascolti doppio rum dalla città di Sassari. Sì, doppio rum, ti sento, Non so che tipo di microfono tu stia usando, però la modulazione rimane un po' citofonica, chiusa, capito, con la modulazione. Aspetta che c'è un po' di problemi di fischietto. Ora non posso fare niente. Vediamo un po', avanti, vediamo un po' se è migliorato. Stavamo usando uno con l'altro, faremo venire avanti Trapani, dai. Avanti Trapani, se ascolti il nord della Sardegna, la città di Sassari, Natalino Alfa 1 è la stazione che ti sta modulando in questo momento, avanti ancora a te l'amico di Trapani. Intanto passa al Z1 come auto solo o a Trapani. Ok, avanti, passa Cappa, io ti ascolto bene, Santiago 7 Radio 5 qua, a Sassari, nord della Sardegna, avanti ancora a te, Trapani. Così va bello, io preferisco parlare con l'Italia, non con gli spagnoli, che a malapena riesco a capire cosa dicono. Qua è la Trapani, c'è una carica. Io ho difficoltà Gianni a capirli perché magari sono nella stessa regione, però nella stessa regione non si copiano e praticamente sento troppi segnali uno sull'altro. È come tra noi e Cagliari, capito? E quindi non si sentono e si parlano uno sopra l'altro, viene male per quello, ma. È bello anche Costa Ionica, hai visto, in barra pesante, avrò detto l'amico, barra pesante era, un bel segnale anche. Quello della Costa Ionica arrivava benissimo qua. Sono qua dalla Costa Ionica, non so se mi state ancora ascoltando, Antonio, stazione Mano Nera. Sassari, cambio. Osirio, che ascolto doppio rumi di Sassari, buonasera anche a te, ben sentito. Antonio qua, stazione Mano Nera, coordinate Costa Ionica, in barra pesante, direzione Grande Isola, cambio. Cava cava, Costa Ionica, arrivi benissimo qua, Santiago 8 e mezzo, la radio 5, non so come ti stia arrivando io lì. Arrivi anche tu bene qua, Santiago 9, radio 5, almeno qua, camminando, oscillante, 8, 9, pure tu arrivi qua, avanti, doppio rom, cambio. E capa, faccio venire avanti Marco Condor, poi... Beh, qua c'è la ruota, facciamo venire avanti Marco Cobolo, poi c'è l'Attalino Alfa 1 in ruota, avanti Marco. Sì, K, sì sì, l'amico è anche stabile come segnale, non è mai sceso sotto un certo livello, anzi ti dirò che adesso il segnale era 9 oltre il 9, almeno 9,5 ho registrato, e quindi è tutto ottimo e abbondante, avanti per Marco. No, forse non mi ha copiato. Ehi, ci sono parecchi segnali in aria, Ehi, c'è propagazione stasera. A me. Sono Marco, tutti vicini. Tutti forti qua. Natalino, Marco, tutti forti arrivate qua. Tutti segnali 9. Hai capito? Io sono in movimento, sto camminando direzione Grande Isola. Allora questo apparato funziona, si sente bene con le modulazioni. Avanti Marco. Confermo, nonostante l'eco è ben capibile, comunque confermo il 9 più 10, qua ha toccato il 9 più 10 effettivo. Anche qua. 9, 5, 9, 10 qua, stai arrivando Antonio dalla Costa Ionica, Natalino Alfa 1 da questa parte. Comunque avanti Gianni per Antonio, dai. La mano nera, Antonio, c'è un interrogativo da farti, quanti whisky stai usando? No, non ce l'ho grosso, dai, piccolo, saranno sui 300, dai, 300 watt. Piccoli, 500 watt. Parato è l'8000 GX, non so se lo conosci. K di Rogero, comunque l'apparato va molto bene, è di quelli da battaglia, la modulazione è chiara, un eco bello, non sento la coda dell'eco però. Ma questo è originale, questo è l'8000 GX, non so se lo conosci, capito? È originale come l'ha fatto la mamma. Ah, pensavo che avessi l'eco colto addirittura. Ma questo è colto, non mi ricordo come li chiami, Marco. Questo è l'8000, il colto. KK, dai. Vabbè, io ne ho avuto diversi di quelli, dai. Fatto da Lumacone, fatto da Albino qua in Sardegna. Diversi ne ho avuto, 4 o 5 di quelli lì. Sempre alla 48. No, ma questo non è alla 48, dai. Questo è il colto. Marco, questo è quello originale, eh? Io sono Gianni, sì, ho capito. Quello corto, quello che costa un pacco di soldi, è che tutti cercano, ho capito. Confermo. E questo avrà quasi 50 anni, eh? L'ho comprato quando ero militare, penso un po'. Avanti, fai girare, dai, da parte mia qua. Girate in metà ponto, sto arrivando a metà ponto, cambio. Cava, dai. Passo Natalino di nuovo, avanti Natalino. Io non so come sta uscendo il mio di ecco. Sarei curioso, gatta. Ma come faccio a usare il parlascolta su questo apparecchio, Marco? Per sapere come sto uscendo con l'ecco. Allora, è la voce di menu numero 2, chiamata NOG, e lo puoi regolare quanto vuoi tu, siccome il microfono da tavolo però potrebbe fischiare, quindi io direi di non andare oltre il 5, almeno per avere un'idea dell'eco. Attenzione Sardegna, sì, la Calabria chiama. Io... Avanti Calabria, la Sardegna ti ascolta forte e chiaro, operatore Dutturum, avanti. Sì, capa, ascoltiamo Sardegna, ok, vi ascolto anch'io molto forte, complimenti. Doppio rom, mi ascolti. Sano, intanto Ferdinando, Costa di Renica, Corso di Gioia Tauro, cambio. Ho capito la metà perché arrivavi forte, però poi si sono accavallati altre modulazioni e non sono riuscito a capire ciò che hai detto, dai. Ripeti, magari riesco a capire, se non si mettono uno per volta, vi ascolto tutti, dai. Va bene, dai, c'è troppa modulazione, vai là, qua. Ok, Luciano, Gian Ferdinando, Costa di Renica, un po' di Gioia Tauro, il cambio è 7-7, cambio. Kappa, dai. Ho capito, avanti Natalino. E io l'ho ascoltato molto forte l'amico di Gioia Tauro, ti ascolto benissimo, non so come stia arrivando io lì da te. Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari, nord della Sardegna, avanti ancora a te. Attenzione all'amico della Calabria, hai copiato Natalino, interrogativo? Sì, Kappa, l'ho copiato, ma ci sono avanti di qua in Italia. Va bene, sono Luciano, ok, dalla provincia di Reggio Calabria, Costa di Renica, ok, cordiali 73 da parte mia. Kappa, adesso rilancio Natalino, un attimino. Saluti da Marco, sempre città di Sassari, nord Sardegna. Il tuo segnale massimo era un 9 pieno, radio 5, quindi arrivi benissimo e senza alcun problema. Natalino, prova a fare in passaggio. E anche qua arriva bene l'amico di Gioia Tauro. Arriva benissimo qua, Santiago 9, radio 5. Non so come arrivo io da lui, perché c'è molto bailame, dai. Avanti ancora a te l'amico di Gioia Tauro. Sì, Kappa, positivo, c'è tanta vita, quindi ci sono tante stazioni che c'è un bailame incredibile, ok? Mi ascolto bene, arrivate abbastanza bene qua in Calabria, da 5 a 9, oscillanti, radio stereo con preciso ok, grazie del QRK, va bene, 73 dalla stazione Alfa 1, operatore Natalino da Sassari, nord della Sardegna, avanti Gianni. Mi bene un camionista Natalino, che secco, bello, fa veramente bene. Figlia di Rubudu, già lo sai che e poi te lo dico io come funziona. Con tutte queste ecco, non è bisogno solo Natali. Già lo sai che se no chiamano al telefono. Osagiccio è l'originale, quello che ha dato. Praticamente ci sono di tante marche, ma questo è l'originale, il primo che hanno fatto. E quello che c'ha quell'amico pompa più di questo, perché è stato tirato da un amico che tu sai. Con tutti questi ecco. Belli, Ho sentito 9.009. No, stanno parlando. Negativo. Il bip del 9.009 ho sentito. Con tutti questi ecco. Ora Lazzari, ascolti Gioia Tauro, chiamo cambio. Certo che ti ascoltiamo Gioia Tauro. Sempre 5.9 per te. Sì, positivo, dai, molto bene, sono contento per il contatto alla Sardegna, l'opzione. Io ho lavorato in Sardegna, ho chiesto a nord e a sud, mi cambia tutto tuo, Kappa. Cava, Natalino Alfa 1 sempre, che sta modulando, un attimo che devo staccare, 73 l'amico della Calabria. Vediamo se c'è rimasto Gianni. Gianni, sei ancora? Sì, un attimino, sono qua. Ora su Alau, ok, a Palau, provincia di Cagliari anche. Ok, sempre regionale. Cambio. Kappa, gli amici sono in pausa, sono un attimino in pausa. Allora, io sono Marco, ti do le condizioni di lavoro. un President Taylor MFM di tipo omologato, microfono di serie, poi un'antenna di plastica e una Midland Energy 5 ottavi e 50 watt tondi. K, vai se mi hai copiato. Allora un saluto dalla Sardegna nel caso che non ci riascoltassimo per stasera. Ciao, buon proseguimento, ciao. Un saluto anche da parte di Gianni Doppiolun che ti super cordializza, vai. La Sardegna ti abbraccia. Comunque essere pignoli sarebbero 49 watt, nemmeno a dire 50, 49. Cava. Natalino ci sei? Stasera che devo registrare non c'è. Aspetta, si è sentato un attimo. Io, ci sono io, attenzione, Gioia Tauro. Se vai a copiare qua il re di Porto Torres, sono Sardegna, cambio. Sto facendo il video per metterlo su Facebook. Ciao Eugenio, ben sentito. Sempre che mi autorizzate. No. Avete parlato in due. Eugenio, buonasera. Buonasera anche a voi, buonasera. Con tutti questi ecco. Natalino. Non se ne capisce più nulla con tutto questo bailame. Natalino, sto facendo il video. Un video? Scappa, lo metto su Facebook, se volete, sempre. Mandamelo su WhatsApp, ma dove sto parlando io? Stavo aspettando a te per farti il video, e invece te ne sei andato. Adesso è entrato Eugenio, salutalo, vai. Ciao Eugenio, se mi ascolti. No, volevo vedere come uscivo, come ti arrivava l'ecco, per sapere come esco, per potermi regolare. Ti stai ascoltando, Nathalie? L'hai messa la funzione autoascolto, sì? No, negativo, non ho fatto a tempo che sto facendo cose, è tornata mia moglie qua, lo sai com'è, no. Occhio al mattarello. Infatti, se Gianni fosse così gentile da filmarmi come gli arrivo, in modo che me lo manda via WhatsApp, io mi ascolto, capisci? Vediamo se c'è qualche amico là fuori. Avanti, da Sardegna sta chiamando. Ora attenzione alla frequenza, Sud Italia, Calabria chiama. Un attimo, attenzione Sud Italia, se ascolti il doppio rum della città di Sassari che ti super cordializza, avanti. Ok, Sassari, ti ascolto, il 7351, la campo 5 della Charlie Zulu, il cambio Sassari. KK, vai, ti ascolto forte e chiaro. Sono in compagnia degli amici Natalino, Alfa 1, Marco Condor e Eugenio da Porto Torres, avanti. Avanti Eugenio, vai! Buonasera, ben sentito, l'amico Gioia Tauro! Contraccambiamo la strada stanza, bella, grande la Sicilia! Grande, riprenditela! A me non mi sente. Ci sono un bel po' di segnali sovrapposti Eugenio, magari è per quello. Comunque stavo guardando le immagini del Colt, dovrebbe essere quello che ha l'amico, sì, praticamente già il beep breve, l'eco è stato copiato nei 48, tutto dal Colt, il Colt è stato quello originale, credo che sia l'M e il Colt MK come 8000 GX, una cosa del genere dovrebbe essere. Hola, attenzione, Sassari. Avanti. Ok, la Lamezia Terme, la Charlie Zulu. Kappa Lamezia Terme, Charlie Zulu, Marco Condor da Sassari, Nord Sardegna, viene avanti per il segnale. Ok, tu c'è un po' di casino comunque, ok, eh? Comunque ti ascolto, non so io che segnalino ti faccio, ok Marco? Siamo intorno all'8, 8 e mezzo, 8 per mezzo attualmente, va bene. Il segnale intanto oscilla ovviamente. Ti volevo chiedere il modello esatto di quello, se è l'8000, per caso il Colt 8000? Non pervenuta, va bene. Ho sentito un break, avanti il break. Comunque l'8000 proprio, il Colt 8000. Napoli, Napoli, vieni avanti se copi la città di Sassari, avanti, c'è un po' di melame. Napoli, Napoli, copi il nord della Sardegna, cambio. Ok, Sassari, ti saluto, 7351, la Charlie Zulu, la Lamezia Terme, ti saluta. Kappa Charlie Zulu, ci sentiamo in un'altra occasione, ok? Buon proseguimento di serata, buon tutto, buon lavoro se sei a Trabacco. Kappa, ciao, Stalino. Ok, Roger, ciao Sassari, alla prossima, Kappa 5, la Lamezia Terme ti saluta. Marco, devo scappare, devo scappare, non so se tu mi hai fatto il filmino lì per vederlo su WhatsApp come arrivo lì con l'eco. Però purtroppo è arrivata la 50 e devo cenare, già lo sai per quale motivo. Ok Marco, avanti ancora a te. Cappalattalino, nessun problema, Gianni sta facendo il filmato, però peccato perché i segnali migliori erano prima, adesso si stanno un po' mischiando, si stanno livellando e mischiando troppo. Gianni, sei qua? Sì, infatti ho smesso di farlo adesso, ho registrato Cappalattalino per farglielo ascoltare e adesso ho smesso di farglielo, dai. Se ci sono modulazioni migliori magari la faccio dopo. Brecco, brecco al canale, brecco, qui è Napoli, mi dicevi cambio? Certo che ti ricevo, forte e chiaro, l'operatore doppio run città di Sassari, nord Sardegna, che ti super cordializza, avanti. Ok, qui Antonello in Parago, stadio uscita 5. Santiago di 7, la radio è 4, va. Ok, ti cordializzo, mi fai segnare 7, oscillante 8, modulazione molto forte e chiara, qui Napoli, Antonello in barra mobile. Confermo, confermo Santiago 7, un'altra stazione di Sassari. Sassari, qui di Napoli, operatore Antonello. Attenzione Antonello, dove sei? A Napoli, hai detto? Sì, Napoli, barra mobile. Cappa, ma zona alta? Abbassa un po', esci troppo forte. Ho detto se sei in zona alta. Risultato? No, no. Kappa. buono dai, va bene allora. Va bene sì, che segnale ti faccio io? Santiago 7, la radio è 4, dai. Non ti posso dare 5 perché non è proprio a bomba, ma ti ascolto abbastanza bene, dai. Prima c'era la Sicilia, c'era tutta la Sicilia, adesso la Campania. Ci fa piacere, dai. Qui è la città di Sassari, nord Sardegna. Ok, Sassari, nord Sardegna, ok. Non so se la Sicilia riesce a sentirmi. Antonello, città di Porto Torres, di qua, questa è qua. Santiago Volove, radio Super 5, cambio sempre nord Sardegna. E com'è che sono così forte? Cioè, se io ho un baracchino che è 5 watt di potenza, una vita sulla macchina... Ma io non sono solo lui, eh. Antenna stai usando sulla macchina, siamo curiosi. Ma voce rimarrò punto. Non ho copiato, avete fatto. Vi siete incrociati con la modulazione, non ho copiato, se puoi ripetere. Ho detto che antenna stai usando sulla macchina. È una LEM 800. K, le LEM sono. Io ho la Turbo 2001. Ti dico, dai. solo che è molto pesante come antenna. Da fermo si può usare, ma se cammini ti si stacca la magnetica. No, è ben fissata, è abbastanza fissata. Otto arriva adesso. Capa, una cosa, allora sì, l'amico arriva bene, è arrivato anche Otto. La propagazione fa i miracoli, capito? Tu ci metti il segnale, la propagazione fa il miracolo, capa. Mi piace questa cosa, molto bene. Io ci volevo mettere un limone sotto, però non mi conviene. A questo punto se esco così forte. Sì, propagazione, sì, ci aiuta, dai. Ci aiuta. Io sono liscio lo stesso, lo sto uscendo, non ho lineare, non ho nulla. Sto uscendo con i watt dell'apparecchio. Sei sicuro? Te lo giuro. No, allora perché sei 9.30? Sei quasi a 9.30. Magari non proprio 4 watt o 5, qualcosina in più c'è. Marco, sto usando il Cobra. Ah, ma il Cobra già di suo è bello pompato, vero? Vabbè. Vabbè, no, hai ragione, per tu hai detto i watt dell'apparato. L'apparato ne ha, quanti ne ha? E va bene così, dai. 20 ne ha. Per quello, è per quello, ok. No, se no eri 9.25 di solito qua, hai capito già. Ok, hai visto che bella propagazione. 9.30 a Napoli, vai. Ma a me a fondo scala a Napoli qua, 9.10 alla grande, 9.10. Io sono arrivato a 9.30 a Napoli. Peccato che io stia usando un baracchino della mutua, cioè più piccolo di così non ce l'ho. Avanti, avanti, avanti, ti sente la Sardegna, ti ascolta. Falconello, dai, ti sei spostato? Cappa, dai, ti ascoltiamo lo stesso, anche se è più basso ti ascoltiamo. Avanti, Eugenio. Eia, salutami tutto Napoli, Pozzuoli e dintorni, Castellammare, Torre del Greco e via dicendo. Viva Forcella, viva i quartieri spagnoli. Ok, un saluto da Pozzuoli e tutti. Facevi prima dire tutta la Campania. Tu te li sei segnati le località di stasera, già, per curiosità? No, non li sto segnando, ce l'ho il log, ma non lo sto facendo. Non ne ho segnato, non Marco, non a Giugana. Sono, mi sento strano stasera, tutto quanto abbattuto, mi sento strano. Forse ti ha mangiato un bull. Ma che disegni, ciao Otto. No, non stai dicendo niente. Ho mangiato sufficienti di pesce, l'insalata e due arance oggi, cabui. Ed è nulla. Salutami Porto Torre, sì. Ma che non so che ci va arrivo. Un estremo. Ok, 10 watt per me, perfetto. Sì, 10 watt, carto le buste. Non si preoccupa. Ma so che dici che così è regolato e così è. Quando scalda bene arriva a 10, perfetto. Arriva a 50. Cioè 10 di portante muta, vuoi dire? 10, sì, 10 portante muta. E arriva a 50. A chi era già avuto un 4, di chi? Bianco per me. Avanti. Allora, la città di Sassari, nord Sardegna, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Avanti, se c'è qualcuno da fuori. Tantone, adesso arrivi troppo forte, però cosa hai fatto? Non E allora è la propagazione che ti sta aiutando. Stai arrivando proprio come se fossi sotto casa. Però è a momenti, capito? A momenti ci sono sovramodulazioni, QRM della propagazione, insomma, un po' di disturbo c'è. Ti mando avanti di nuovo Eugenio, avanti. Antonello non mi sembra un nome proprio napoletano, come mai? Antonello, ma tu sei proprio nativo di Napoli? Ho detto, sei nativo di Napoli oppure sei di qualche altra città? Perché non mi sembra l'accento napoletano il tuo? No, sono nativo di Pozzuoli. Sì, l'accento già l'ho Sur. Guarda, l'ho sentito, l'ho sentito. Comunque non ce l'ha un accento marcato napoletano, solitamente si sente molto di più quello napoletano, l'accento, se non ce l'ha marcato proprio forte. Sono andato a Foli, quindi l'accento napoletano non ce l'ho. Auro. Il greco è già un po' diverso. K. Perché dopo vado a Torcico, credo, prego, credo, riaccia per questo, ma va, è uno partito. Comunque, il mio nominativo è Italia Wings. Si alloca lì, no? Ho fatto tutto, con i mani. Facciamo un altro servizio per noi, la fine. A parte Antonello da Pozzuoli, c'è qualche un altro che vuole entrare a parlare con la Sardegna, avanti. Sì, mi brucia. Sì, ciao, Manuele. Io ho fatto il 10 con l'antennino. Ah, non ci penso più. Ecco, Manuele. Però va a vedere se ci arrivo. Attenzione, Antonello di Pozzuoli, se ascolti Manuele, vai, Manuele. Io ho capito, chi è questo Emanuele? Ma no, lascia perdere, ma se lo cosa avrei, mi sto andando a lavorare già. Cazzo mi sta lì. Provare se arriva. Gianni! Cappa, vabbè dai, buon lavoro allora Emanuele. Ci sentiamo, dai. A che ora devi andare? Eugenio, ieri è andata tutto bene? Sì, sì, e poi sono sovrapposti agli amici, non sono riuscito a riprendere. Oh. Chi è questo Emanuele? Ma dove? Emanuele è figlio di Tonino Kawasaki. E come non lo sento? Ma la Sassa è famosa. Ehi, ma c'ha un antennino di macchina, dai. Non ci arriva qua, per cazzo. Eugenio! Adesso ho sentito, ehi, Emanuele. No, sono Emanuele, sono il vicino di Emanuele. Squalo, Tore Squalo. Questo è Tore, Tore... E te la andiamo. C'è tutto. Attenzione Sardegna, torna le muove a demo. Imperatore Leo. Faccia a me il tesoro. Mi Pozzuoli mi sta chiamando. Attenzione Sardegna, se ascolti Campobasso. Attento Campobasso, arrivi forte e chiaro. Qua l'operatore Gianni Doppio Rullo alla città di Sassari. Buonasera. Gaffa di cordialità in 7-3 da parte mia, Leo, provincia di Campobasso. Ti ascolto 9-5, forte e chiaro. Anch'io ti ascolto molto forte, anche io ti sto ascoltando molto forte come se fossi sotto casa. Dai, sono in compagnia di altri amici. Avanti Tore. Sì, buonasera. Campobasso. Non so se mi ascolti. E Gaffatore, a te ti ascolto un po' meno forte dell'amico. Chiari e però ti ascolto. Campobasso, ascolti qua, città di Porto Torres. Gaffa Torres, ti ascolto forte e chiaro. Daniel Santiago 8 Radio 5. Grande. Ecco, tanti saluti da Marco, sempre città di Sassari, ti ascolto bene, vieni avanti, tiro un segnale. K Marco, dai, da parte tua, segnale 8, radio 5, super buono, dai, è bellissimo. K, il tuo segnale è prossimo, se non pari al 9. La radio 5, ben sentito. K, vai di nuovo Gianni. K, io quando ti sto arrivando a Campobasso, vediamo un po'. K, tu mi arrivi quasi 9, dai, sempre 9-5. K, K, va bene, dai. Anche tu arrivi molto bene qua, anche la modulazione è chiara e forte. Ciao l'amico di Campobasso, Natalino Alfa 1 da Sassari, nord della Sardegna. Il segnale è per te 59, 73 all'amico di Campobasso. Ciao Leo, ci risentiamo, cambio! Sparito? Oggi è alto in bassi, mazza! È sparito? è sparito. Evidentemente se ne scesa la propagazione. Attenzione che alle 10 a Camma Casse, copiate qui la città di Malindi, cambio! Siete, Roberto Torres. Conosce baracchini buoni, montati. Italia non ne arriva. Quando c'è un baracchino di plastica che è più omologato non si può. È tra la propagazione. Ma non avere quell'aiutino, se no addio. Vai Ettore. Io mi ho cambiato, ho messo il presidente. Che ascolto più bassi, da con l'altro che 4 watt, ascolto un po' più forte. Questo è a più basso. Sì, ebbene Natale, hai mangiato? Già finito, è l'aleva. Ehi, ti dico, a mangiarsi un po' di minestra e fagiolo e un po' di salsiccione io assai, vai. Mi hai ricordato Antonio Bombolo quando si ordina la pizza, no? Dice, è arrivata la pizza, 30 secondi dopo rientra, e a Giovagnaggio, ma come? Starsi aspirata col naso. Antonio Bellucci stava mangiando, è una cosa incredibile. La roba bisogna mangiarsela piano, piano, si deve godere ogni boccone. Dal centro Italia, provincia dell'Aquila, dal centro Italia, provincia dell'Aquila, Breche Cobar. Mica c'è l'Aquila, falla entrare. Cappa, avanti la provincia dell'Aquila, qui Sassari, avanti. No, non lo copio. Sì, sto andando, scendendo se nella propagazione. Vai, all'igrebo, all'igrebo. Sta cominciando a dare culo. Poco fa già era buono. C'è molta propagazione, sulla frequenza c'è molta propagazione. Se mi stai ascoltando, io ti super saluto. Ben copiato per la prima volta Robin Hood, la stazione Alfa Mike dal centro Italia, provincia dell'Aquila, ti super saluto e ti rimetto il mic. Attenzione amico, stacca il lineare perché ti sta mangiando tutta la radio, non si capisce ciò che dici. O lo stacchi o abbassi i watt. Sì, è vero, la modulazione era tipica muffled, come dicono gli americani, muffled, come tutta impastata, confusa. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, la Sardegna fa chiamate, si sintonizza l'ascolto, brecco, brecco. Cavolo, sento una cozzaglia di segnali, tutti assieme, e non so da dove siano. Io ho sentito la Puglia, ma troppi segnali, troppi, già, non so se tu riesci più a scremare un po' l'ascolto. Nuda, non pervenuta, Tore, riprendi. Tutti assieme, non si capisce più nulla. La propagazione sta buttando tutti dentro, non si capisce nulla. Andare, ci rabbiamo un momento bene. Ah già, ma trovi la pizza con le frittelle, con la salsiccia, con la buia. Ti sento male Tore, sto strappando, forse sei troppo forte o c'è il microfono troppo attaccato alla bocca. Sono abbassato adesso, guarda a vedere. E adesso va meglio, dai, staccatelo un po' dalla bocca. Il sogo si bondi a 40 centimetri. No, qua no Gianni, qua lo ricevo abbastanza bene. Vabbè che questo baracchino è di bocca buona, diciamo, dai. Ma questo, se la modulazione non è chiara, è troppo vicina, fa questo effetto. Buonasera. Chi è avanti? Scarpa di Rogero. Due pizze e una taglia da fare a riga. Ma che è Torino? Allora, non si sa che lui. Porta due pizze a notte e la fai. Pronto, buonasera a Tortoso. Attenzione l'amico della Puglia, stiamo ascoltando la Sardegna. Prego, prego. E allora, cosa mi raccontate? Chi è che vuole la pizza? Ti stai perdendo tutti gli ex, c'è da tutto il sud Italia stasera. No, ma veramente adesso gli ex, capito? Beh, almeno a parlare con l'Italia, almeno dare il segnale, così la zona. Io vado sempre in zona B. B zona. Ma adesso, a parte la battuta, chi gliel'avrà data l'idea al Banfi per quel film dell'allenatore, della Bigiona, come diceva lui, Bigiona? Non lo so chi gliel'ha data, forse Gianni lo sa chi gliel'ha data lui. Gianni si è sparito. Gianni è sparito. Oddio, oddio, Antonio, con la modulazione che si spacca orecchie, tu si sente l'effetto stanza, un bel. Guarda, più bello, raga. Prova a abbassare appena. Scusa, io mi compro la Ferrari e vado a 50. Allora, devi abbassare appena abbassa. Se no ti sento così è normale. Andrea, è normale, Issa. Chietta. Rossure, il signor microfono, ecco cos'è. Senti, senti la roba che c'è sotto, porca miseria. Però grazie a Dio una volta tanto è l'Italia e non la Spagna come l'altro giorno. Non so se tu stavi ascoltando un paio di giorni fa, c'era QRM quasi zero e gli spagnoli in FM arrivavano ben oltre il 9. Ah, quel giorno lì, guarda che quello forse non era in macchina, era veramente dalla Spagna, era tutto così negli altri canali, soprattutto al canale 18, certe bordate di segnali, e loro erano in questo locale e arrivavano 9.10, 9.15 a me, che è un Benny, 9.15 da me è come 9.60 da Temi. Ia, se te li stavo ascoltando l'altro giorno, QRM zero proprio, erano bene forti, c'è che voleva entrare, che voleva passare... Avanti Gianni. Buonasera Antonino, dai, ho attaccato il 3009 adesso Marco, come va? Già va bene. Con che microfono? Con quello della Midland, quello che ho preso in offerta. Ah, quello famoso, sì, sì, F qualcosa, adesso non mi ricordo. Sì, già andava bene. Vabbè, no, ti volevo chiedere una cosa tecnica, poi te la chiedo con calma. Fai pure. No, l'ingresso del tubo, ti ricordi quant'era? Davvero era 10 watt e in SSB c'erano 20 e 30, sicuro? Allora, ce ne sono due tipi, uno che va da 5 a 10, l'altro che va da 10 a 20. Io sento questo, ho fatto la cazzata. Tu hai scelto quello, però vedi, a maggior ragione, con i watt normali degli apparati dovrebbe non saturare. Perché io ho sentito, sai chi, che lo provavo anche in diretta, su YouTube, quello Francesco che ogni tanto entra a salutare, Luna Rossa, come si chiama, lui ha usato quello lì una volta, ben alimentato, con 5 watt d'ingresso. Ma io credo di averlo sentito limpido, a quanto ricordo io. Quando mai dove? Ripete quanti batti li dai, adesso come va? Ma dai cavoli. No, no, quello già andava bene, il 3009 già va bene, lascia stare. Con 3009 va perché 4 watt. Eia, perché c'è la versione anche che è come questo, ha l'ingresso massimo 5 nm e SSB dicono 10, in realtà dall'inizio erano 10 nm e 20 SSB, però hanno fatto la lunfiata di dire che va pilotato più basso, i componenti sono uguali, dicono di pilotarlo più in basso in modo da non saturare, capito? Ma c'è un'installazione a mosse che non dovrebbero saturare, capito? Solo che se li dai watt in più d'entrata è quella la ragione. Siccome quando ha portato Carlo il Galassi a Moro, le ha alzato in watt sicuramente. Chi lo sa, va bene, riprendete che vado bene. Ho ascoltato il video, grazie già. E a me non me lo mandi, voglio sentire la mia vociaccia registrata. Ah, l'hai detto, lui esce sempre bene. Già ci sei anche tu. Ciao Tatalino. Ciao carissimo. Da Toscana. Stasera Franco mi ha dato il microfono che mi ha fatto, l'SB è tutto nuovo, l'ha messo, lo spinotto nuovo, e poi mi ha dato tutta la spirale nuova, il cavo, bello, bello che l'ha fatto, però non è per l'attacco di questo qua, ho provato quella che la sia provato, niente, innesca, devo cambiare la situazione dei fili. Saranno al rovescio. Bisogna propagazione, sentito hai? E tutta l'Italia abbiamo parlato stasera. Meglio così, avanti Gianni. oggi doveva essere bello in banda laterale su canali alti, perché c'era l'Italia, e in banda laterale il segnale viaggia ancora di più. Per quello, gatta, ma deve essere la propagazione messa male, perché chiamavo e non mi sentivano in banda laterale, o è questo l'apparato che non pompa, capito? E cosa vuoi ti dica? Devo misurargli i watt, PEP, devo attaccargli il watt, mentre vedere un po'. Se è il caso di tirarlo, lo tiriamo in mano laterale. Domanda per Natale. Brecche dalla prova. Avanti la domanda per Natale. Mike Brecche. Allora, il tuo wattmetro per leggere la PEP lo devi alimentare, perché nel... come si chiama quella cosa che ho io? Nel Daiwa, per leggere i PEP effettivi devi attaccare l'alimentazione, c'è un circuitino che li misura, non so perché ma è così. No, il mio non è, il mio c'ha solo la, come si chiama, lo spinotto per vedere la luce e basta. Il mio c'ha un tasto per vedere PEP. Te l'ho mandato, Marco. Grazie Gianni, adesso me lo guardo. C'era uno che chiamava da fuori, arrivava forte. E io l'ho messo attorno a 2 watt, basta. No, non ne voglio più fare. DX. Perché poi DX non sono, perché sono con l'Italia, stiamo parlando. Eh beh, se per DX sta bisogno di un collegamento con un'altra città, Napoli. Sì, collegamenti a lunga distanza sono, va? Però non DX, DX si dice fuori proprio quando parli con gente di fuori. Non ne ho voglia, dai. Se no me ne sarei passato in SSB a vedere se mi rispondevano. Perché stamattina non mi sentivano, io li sentivo, ma loro no. Sono dei forti comunque. Scusate, mi faccio una spazzolata nei canali che furono, a vedere se c'è propagazione in chiamata laterale. Dietro subito. Ci sarà sicuramente. Marco sta guardando il filmato, il video che gli ho mandato, E allora, te l'immagini. Cazzo, sono tanti apparecchi, ti metti il 6009 e stai andando, gatta. Cosa stai lì con apparatini del cacchio? Io adesso ho il 3009, quello che se lo fa è quello uguale. Quello va bene ugualmente. No, ma Marco, ce li ha gli apparati e non li usa, no, non ho capito. È un comunista, Marco. Sta accumulando, accumulando, va a finire che si scende da casa. Già ne hanno 12 apparecchi, cazzo, la gente se me ne vendi a uno. No, ma no, pure tu vendi. Miraggio, tu vuoi comprare, chiccio. E manco mare che miraggio comprato, che ho fatto in tempo a comprarmelo. Che mi si è rotto il 3009, vaffanguala. E ancora non me ne ha aggiustato quello. È lungo che lo mesi di maggio. Ho visto lo strumento che gli hanno buttato all'ecocentro, cazzo, roba di strumento, gli ero grido, che cosa così, si chiama iniettore di funzioni, ecco perché, io l'ho visto su coso, no? Oggi quello strumento lì che gli hanno buttato via. Ti fa da test per i guasti, dai. Ti fa il test come nella macchina, dai. Allora, ti dice proprio la causa, dov'è il guasto, ti dice, e fai prima aggiustarlo, capito? Perché è inutile che gli cambiamo l'integrato, noi me lo brucia subito, torna, capito? Se non sappiamo quale condensatore bastardo è andato a farsi fottere. Aspetta Natalia, avanti l'attenzione. Qui è Napoli, operatore Antonello, mi copi? Attenzione Marco. L'isola della Sardegna fa chiamata, c'è qualcuno da fuori? Qui è Antonello in barra mobile, mi copi? Antonello, stai arrivando basso adesso, arrivi in basso. In questo momento. Sempre doppio run ti sta rispondendo, dai. Arrivi in basso basso adesso, non arrivi più come prima. Okay. Sono in una zona abbastanza. Sassari, Reggio Emilia, buonasera, doppio rumo dalla città di Sassari, nord Sardegna. Eia, un attimino solo, avanti Reggio Emilia. Reggio Emilia, avanti. Non ne tengo più. Ho sentito 5 minuti, adesso non lo sento più. Ciao, ciao, ci sentiamo, un abbraccio, ci sentiamo, la Sardegna vi abbraccia. Avanti, stai lì. Natale. Avanti. Chi è? Gianni, tutti di Bruciani. E beh. Ma erano fischiare però. Perché non c'hai più i canarini, ecco cosa è. Allora si mettono loro a fischiare. Ma non ha giocato ora io. Andiamo, andiamo. Si presenti un poco. Mi sta salendo di nuovo la pappagatta. L'accadito non risponde. Deve essere che è andato a berci qualche cosa, perché c'aveva la gola secca secca secca. E ha furia di chiamare. Che andiamo, che andiamo, c'è gira. Marco, Marco, ci sei? Ho finito adesso di guardare il video, sì. Sì, la voce è incredibilmente fedele alla realtà. Certo, a me la mia voce non piace, però quella è. Bellino, una figata. Soprattutto si vedono apparati, si sentono le potenze, dichiarare le potenze tutte legali, apparati legali, fatti legali, autodenunciamoci. Ma quello lì è mitico. Poi quanto è bello quell'apparato, mamma mia, mi commuovo quando lo vedo. L'ho pagato, Eia, chi c'è rimasto? Tutti spariti. E poi siamo rimasti in tre. Eia, io non so se c'è anche Natale dopo. Comunque, ascoltando il video, Gianni, al mio orecchio mi rendo conto che l'effetto eco, anche in propagazione, che ce l'aveva in propagazione, un po' contribuisce a non farti capire troppo bene il parlato. Invece quelli che magari modulano col solo parlato senza eco, è già più capibile, perché se mischi l'eco più il QRM che hanno sotto, esce questo effetto brutto. E invece, secondo me senza eco è sempre meglio, è più capibile tutto. Capito? Anche quello di Natalino in locale, comunque registrato, suonava già più confuso. Io vi ho fatto contenti, non ne ho più nessun apparato di eco, ce l'ho solo qua, se lo voglio mettere, ma non ne metto, perché basta che aumenti entra anche l'eco, però non imbongo, è del Galaxy, praticamente c'è l'eco, però non è uso. Cappa, sì. Ecco, al limite, guarda, un amplificato posso usare, anche messo a metà, cioè non, che non sia spacca orecchie, perché la pulizia della modulazione è fondamentale. Io sono sempre questo pallino. Riprendi, Ettore. Mi guarda, io ho l'899 e il President, adesso sto usando il President. Che presidente è? Io sto usando un presidente Taylor IV, 40 canali MFM. Questo è 40, 80 e 40, 40 e 40 sopra, e MFM solo. No, ma la sigla, il nome del nome del presidente. Non lo capisco bene però. Gianni, che io c'ho il volume, sai, ti spiego, Tore, ho il volume un po' bassino per non disturbare mamma. Allora, F, no, I, F, K. Ah, il presidente JFK, sì, ho capito, sì, JFK, pronunciato naturalmente all'inglese. Infatti, chi non vede c'ha di lui. Quindi, per esempio, scritto Taylor è più semplice, perché è il vero nome, Taylor, scritto Taylor. JFK sta per John Fitzgerald Kennedy, e sono le iniziali di John Fitzgerald Kennedy. Bello, quello lì. Adesso 15 watt e questo esce. Stanno regolati a 15 watt. Via, io questo ne ha 3,5 modulati, però ovviamente per i DX l'aiutino, non ho già inserito. Questo attenzione l'amico, se ascolti l'isola sarda che chiama, cambio. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Aiuto, attiriamoli. Però mentre